You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Take a little. Di Valentina Furlanetto. That's the glory of love. Il signor soprano? Sì. Sono Noah Tannenbaum. Senti, ma voi due, tu e Meadow, state... Ancora non lo so. Da dove vieni, Nathan? Noah. Sono di Los Angeles, zona est. Oh, quello che intendo è... La mia famiglia lavora nel cinema, il famoso show business, lo chiamano così. I film di Tarzan. No, no, mio padre fa l'avvocato dei divi. Volevo dire che noi siamo di origine italiana. Ah, se è per questo, mio padre è ebreo e mia madre è afroamericana. Tannenbaum, certo. Ma sul modulo dell'università non c'è scritto che sei ebreo. No, non sono messe domande di quel genere. Ah, certo, naturalmente. E che hai messo? Afroamericano. Quindi ci capiamo noi due, sei nudezzone. Mi scusi? Una carbonella, faccetta nera. Qual è il problema? Io penso che hai capito benissimo. La tua amichetta là sopra non ti ha fatto un gran regalo a portarti qua. Io non so che cazzo pensava. Poi ce lo dirà, eh? Vedi, tengo molti soci di colore, però non mandano le figlie con mio figlio e io non mando con loro la mia. Vado a farsi fottere. È proprio quello che cerco di evitare, faccetta nera. Così, quando mia figlia scende le scale, le dici che ti sono molto simpatico. Poi, quando sarete uscite di casa, la lasci per sempre. That's the story of... That's the glory of love. Bentornati da Valentina Furlanetto a questo appuntamento di Radio 24 con i temi dell'identità, della migrazione, del razzismo e della cucina. Anche quest'anno, attraverso le storie di chi vive nel nostro paese ma ha radici altrove, vi racconteremo l'Italia che cambia, l'Italia con i suoi gusti, i suoi sapori, talvolta tradizionali, talvolta innovativi. In questa puntata andiamo in Sicilia, andiamo in provincia di Trapani, dove si sta tenendo in questi giorni il tradizionale Couscous Fest di San Vito Lo Capo. Questo cibo povero che è diventato anche un po' di moda, è diventato popolare negli ultimi anni e che è comune a tutti i popoli del Mediterraneo e quindi viene cucinato in maniere diverse in Francia, in Israele, in Italia, in Marocco, in Palestina e poi anche lo troviamo in Tunisia, ma addirittura a Mauritius e quest'anno per la prima volta alla 19ª edizione di questo Couscous Fest partecipano anche paesi come l'Angola e il Perù, paesi che hanno vissuto delle contaminazioni e queste contaminazioni le troviamo anche nella cucina. Sentirete delle musiche degli artisti che hanno partecipato, dei musicisti, cantanti al Couscous Fest durante la puntata, ma noi andiamo subito a parlare con uno dei nostri chef, una giovane ragazza di origini marocchine che vive a Venezia e che lavora nella cucina del prestigioso Hotel Danieli di Venezia. E io do il benvenuto a El Afiouni Wafè. Benvenuta. Grazie. Il mio chef Parascandalo Dario mi ha proposto di partecipare a questo concorso per rappresentare il Marocco, che è il mio paese. Sono stata molto contenta, ho accettato molto volentieri e abbiamo praticamente pensato a un piatto però che rappresenta il Marocco, ma non solo, anche la città dove lavoro, che è Venezia, e la Sicilia, dove si fa il concorso. Il piatto l'abbiamo chiamato Couscous Journey ai sapori mediterranei e alle tradizioni di tre terre. Le tre terre sarebbero Venezia, Sicilia e ovviamente il Marocco, che è il mio paese. Non abbiamo voluto andare sempre su tradizione 100%, però di portare anche qualcosa di nuovo e di originale, ecco. Quiero más, ni un minuto que perder. Volar con el viento, sentir que se para el tiempo, pintar el momento y las nubes y persiguiendo, saber cantar, pasarlo bien Da quanto tempo stai in Italia? Io sono venuta in Italia nel 2004 insieme alla mia famiglia. Siamo arrivati dal Marocco nel Trentino, a Trento. Sono arrivata qua che avevo 11 anni. Quindi aveva fatto la scuola alberghiera in Italia? Sì, ho fatto le medie, l'alberghiera, e poi dopo ho fatto vari stage, uno stage a Venezia. E che ricordi ha della vostra partenza? Ero un po' preoccupata perché comunque avrà un cambiamento totale per me, per la mia famiglia, quindi... E quando è arrivata in Italia, nel Trentino, diceva, sì, no? Qual sì. è stato il primo impatto con il Trentino? Che stagione era, se lo ricorda? Era praticamente settembre, a metà settembre, quindi praticamente all'inizio della scuola. Non capivo niente, non sapevo la lingua, ma mi è piaciuto perché comunque tutto questo è un paese, cioè un posto molto verde, molto in mezzo alla natura, mi ha colpito molto, mi è piaciuto tantissimo dal primo giorno. Ho imparato, è andato tutto bene. E adesso, prima di fare una piccola pausa, vi lasciamo con una ricetta del Couscous Fest, che trovate anche sul sito della manifestazione siciliana, una ricetta un po' particolare. Cernia affumicata con couscous al limone e salvia e crema di melanzana. Israele, 2012. Chef Boaz Cohen. Ingredienti per 4 persone. Per la cernia affumicata sotto sale, 400 g di cernia, mezza tazza di sale, mezza tazza di zucchero di canna, pepe quanto basta, un cucchiaino di mostarda, anice stellato. Per la crema di melanzane, mezza melanzana, uno spicchio d'aglio, mezza tazza d'olio d'oliva, mezza tazza di yogurt, mezza tazza di panna fresca, sale quanto basta. Per il couscous con salvia e limone, 40 g di couscous, mezzo porro, sedano quanto basta, una carota, 3 tazze di brodo, un cucchiaio d'olio, sale quanto basta. Per la crema al limone, mezzo limone, un cucchiaio di vino, mezza tazza d'olio d'oliva, 30 g di burro, sale quanto basta. Per la guarnizione, 8 foglie di salvia, una manciata di pistacchi. Preparazione. Mescolare tutti gli ingredienti in una ciotola. Preparare un tegame adatto alla misura del pesce. Cospargere il fondo con i semi di anice stellato per rialzare il pesce dal fondo del tegame e ricoprire con uno strato della mistura di sale. Adagiare quindi il pesce e coprirlo completamente con la mistura di sale fino a quando il pesce non è più visibile. Arrostire la melanzana, asciugare i liquidi in eccesso. Spellare la melanzana e conservarla in frigorifero. Mischiare i restanti ingredienti con un mini pimer, aggiungere sale e olio se necessario e infine mettere in frigorifero per mezz'ora prima di servire. Tagliare le verdure a cubetti di 5 cm. Soffriggere le verdure in un tegame finché non diventano dorate. Aggiungere il couscous o il bulgur. Aggiungere il brodo vegetale, portare a ebollizione e cuocere per 8 minuti a fuoco basso. Togliere dal fuoco per 10 minuti e nel frattempo preparare la crema al limone. Riscaldare a fuoco medio dell'olio d'oliva, aggiungere la buccia di limone grattugiata e il burro. Portare il burro a ebollizione e aggiungere quindi il succo di limone e il vino bianco. Versare il liquido ancora caldo sul couscous, lasciare riposare per 10 minuti e quindi mescolare. Aggiungere sale se necessario. Ci fermiamo brevemente e poi torniamo subito con voi con un altro chef, questa volta di Mauritius. La prossima volta verrete a cena da noi. Sentirete il mio caviale alla cuillère, sono certo che vi piacerà. E Florence ci preparerà la sua macedonia con vodka e acquavite. Sì, sì, sì, sì. La sua sensibilità si accorda con la sua coscienza umanitaria. Ma se lei vuole rifiutare le idee acquisite, allora bisogna che le sostituisca con una morale personale. Raffaele. Florence, good morning. Ça va, vous qui nous écoutez chez vous à la maison? Bonjour, Julie. Bonjour. Aus l'antirassistische Netzwerk Sachsen-Anhalt. 24 mattino di Alessandro Milan. Ma dove eravate finiti? Il Parlamento è aperto ogni giorno dalle 6.30, caffè, brioche e giudizi in libertà. E alle 7.20 vi leggo i giornali gratis. Alessandro Milan, il boss dell'informazione. O vi aspetto dal lunedì al venerdì. E siccome la carta costa, scopriremo anche l'articolo più inutile del giorno. Ma chi se ne frega? You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Take a little and let your poor heart break. Risvegli. Pino, vaffanculo tu, vaffanculo la pizza che fai e vaffanculo Frank Sinatra. Ah sì, beh vaffanculo anche tu e vaffanculo Michael Jackson. Ora basta! Tempo scaduto! Tempo scaduto! Datevi una bella calmata! Vi invito alla riflessione, fate sbollire la vostra rabbia! E di questo, fratelli, ne sono doppiamente sicuro, ve lo giuro! Bentornati a Indovina chi viene a cena. Questa sera parliamo di un cibo povero, il couscous, un cibo che viene preparato sulle tavole sarde, siciliane, ma anche tunisine, marocchine. Insomma, in moltissimi paesi viene declinato in maniere diverse e questo festival a San Vito Lo Capo ogni anno a settembre lo celebra. Stiamo parlando con alcuni chef che stanno partecipando a questa gara internazionale del couscous che si tiene proprio fino a domani a San Vito Lo Capo. L'anno scorso ha vinto uno chef di Mauritius che partecipa anche quest'anno, e allora do il benvenuto allo chef Vinod Sokar. Benvenuto. Buonasera a tutti. Allora, lei Vinod si trova in Sicilia in questo momento? Sì, mi trovo con la mia brigata in Sicilia. Io sono di nativo mauriziano dell'isola Mauritius e ho portato con me un piatto che rappresenta anche un po' l'isola e i profumi dell'isola. Quindi fra le varie influenze della cucina di Mauritius c'è anche il couscous, no? Sì, che è molto apprezzata anche nella cucina, diciamo, cucina creola. E Mauritius è stato comunque colonizzato dai francesi inglesi, poi sono arrivati schiavi, no, all'epoca, dall'Africa, dall'India, dal Pakistan. E arrivato a Mauritius, ognuno ha portato con sé la sua tradizione, come religione, come tradizione. Dices que éramos felices, todo ya pasó, todo ya pasó. Sé que te corté las alas, él te hizo volar, él te hizo soñar. La caratteristica del couscous che si fa a Mauritius rispetto ai couscous di Trapani, del Marocco, sì, della Tunisia? Sì, ma sono tante. Per esempio l'insalata di couscous con il pesce, con le ortaggi, con un curry di pollo. Vinod ci regala una di queste ricette, ci racconta uno di questi couscous che lei realizza. Io dovrò realizzare un dolce stasera a San Vito Lo Capo. Sono pochi magari che presentano un dolce. Io ho cercato di studiare un dolce da portare alla gara del Couscous Festival, anche da presentare Mauritius, e sai che sono pochi a realizzare il dolce. Sto facendo proprio una cosa particolare con un crumble di couscous della zenebia. È una lavorazione molto particolare. Invece di andare a mettere l'acqua calda, andiamo a idratarla con latte freddo e zucchero. Lo lasciamo a mollo e andiamo a scolare e asciugarla nel forno a circa 75 gradi a secco. Una volta asciutto, andiamo a creare poi il crumble del couscous. Quindi unendo la tradizione britannica, che c'è anche a Mauritius, sì. con la tradizione del couscous di origine appunto magrebina, sì, medio orientale. Cerchiamo anche di utilizzare tecniche diverse. Cioè, era più semplice per me fare un'insalata di couscous con il pesce e finisce lì. Invece io sono uno che cerca e penso sempre di migliorare o di creare innovazione e tutto. Sto facendo questo crumble che poi andrò a utilizzare un semi freddo di banana, un mousse al frutto della passione e il del gel di tè verde. Sueño quando era pequeño sin preocupación en el corazón. Sigo viendo aquel momento se desvaneció, desapareció. Vinod, questa del Couscous Fest è l'occasione non solo di gustare assieme dei couscous da tutto il mondo, ma anche un'occasione di parlare del Mediterraneo, dell'Africa, dell'Europa, sì, dell'integrazione. Un modo anche di incontrare altre gente, altre realtà, di parlare, di scambiare dei dialoghi e anche capire che cosa fanno gli altri colleghi, come si muovono, che cosa pensano della cucina, perché ormai la cucina è in piena evoluzione. Certo, e anche la migrazione delle persone da un continente, certo, all'altro trasforma le nostre cucine e ci fa conoscere gusti e odori e sapori, certo, diversi. E proprio su questo io volevo parlare, perché io sono qui da ormai 18 anni e per far capire alla gente, ai miei clienti italiani, che cosa è Mauritius, che cosa si mangia, ho creato una serata che si chiama Il Mondo nel Piatto e l'ho fatto una volta all'anno, nell'estate, a Ceglieme Sapica. L'abbiamo realizzata adesso il 12 settembre a Ceglie, al ristorante Al Fornello da Ricci. Che è il ristorante dove lei lavora come chef. Sì, io insieme a mia moglie Antonella Ricci, che siamo tutte e due in cucina, una gestione molto familiare. Vinod, come mai lei è arrivato in Italia ormai, appunto diceva, 18 anni fa? Sì, sono arrivato in Italia conoscendo Antonella durante una manifestazione interculturale Mauritius Italia. Quindi la sua è stata una migrazione per amore? Per amore, diciamo. E com'è stato l'impatto con l'Italia? Che paesaggisticamente, come clima, come cultura è molto lontana da Mauritius. Non è stato facile per me. Sembra avere un cocco in testa, no? Io sono isolano, mi piace il mare, mi piace la libertà, l'aria, i fiori e tutto, no? Un sapore molto difficile, molto diverso dalla cucina italiana, soprattutto della cucina pugliese. Mira Sofía, sin tu mirada sigo sin tu mirada. Dime Sofía, ¿cómo te mira? Dime cómo te mira. Che cosa le manca di Mauritius, dove penso lei torni periodicamente? Sì, noi quest'anno con la famiglia andiamo a mese d'ottobre, andiamo, ci fermiamo 20 giorni e andiamo a casa. La prima cosa che i miei figli mi ha chiesto, ha detto, io devo chiedere a nonna di prepararmi il faratà con la crema di zucca. In pratica faratà è una piadina, un pane esteso fatto con il mattarello cotto sul fuoco, con una stufata di zucca molto semplice. Questo vanno i miei figli piacciono molto e anche a me. A parte la cucina, che cosa le manca? Mi manca un po' il mare, mi manca anche l'affettuoso della gente, di parlare un po' in mauriziano, in creolo, di vedere anche di nuovo il posto dove magari ho cresciuto fino a 26 anni. Io sono stato sempre sono stato sempre in giro, comunque mi sento del mondo, mi sento così, e poi adesso mi sento più pugliese che italiano. Che non mi dices la verdad. sin tu mirada, sigo sin tu mirada. Dime, Sofía, ¿cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? E i miei radici comunque vieni dall'India, e la mia somiglianza è comunque indiana, e ogni volta che mi vedono, magari non in Puglia, magari fuori, mi dicono o sei indiano o sei sri lankese o Bangladesh, ok, comunque per me non mi cambia niente, però uno che mi vuole parlare, vuole conoscere di più, poi mi chiedono di dove sei, che fai, e quando sentono che sono mauriziano, cioè, ma la miseria, ma che cosa fai in Italia? Sei un'isola, sei un paradiso. Cioè, ho sempre detto, il secondo paradiso che ho trovato è la Puglia. Grazie Vinod per essere stato con noi, le lascio le sue pentole, giusto? Sì, grazie a voi e vi invito di assaggiare il couscous dolce stasera. Cannolo di couscous, Italia 2014, chef Enrico Panero. Ingredienti per 4 persone. Per la cialda, 40 g di couscous, 25 g di brodo, 20 g di farina, 10 g di albume, 10 di marsala, 10 di aceto di vino bianco, sale, olio di semi di arachidi, quanto basta. Per la farcitura, 80 g di couscous, 160 g di pomodori, 80 g di calamari, 80 g di gamberi, 80 di scorfano, 40 g di cipollotto, 40 g di pomodori, 10 ml di fumetto, 20 g di mandorle, mezzo peperoncino, un limone, prezzemolo e paprika quanto basta, olio extravergine d'oliva. Gonfiare il couscous con un brodo vegetale leggero, sgranarlo bene e metterne da parte un terzo. Impastare i 2/3 del couscous con il resto degli ingredienti e formare un panetto. Farlo riposare per un paio d'ore. Stenderlo a foglia fine, coppare con un cerchio di 6 cm di diametro. Dopo aver arrotolato il disco di pasta sul cannolo di acciaio, spennellare con uovo sbattuto e cospargere la pasta con couscous granato. Friggere in olio di semi di arachidi. Fare un fondo con olio extravergine, paprika dolce, peperoncino fresco e far appassire lentamente. Successivamente aggiungere i pomodorini tagliati in 4 e cuocere per 15 minuti. Allungare il pomodoro con il fumetto, aggiungere il couscous e il pescato tagliato a tranci. Portare il tutto a cottura. Dopo circa 15 minuti, togliere la pentola dal fuoco e condire il composto con succo e scorza di limone, prezzemolo fresco tritato e far raffreddare. Inserire il composto in una sac à poche, farcire le cialde, finire le estremità del cannolo. Questa puntata termina qui. Se avete domande, idee, proposte o anche critiche, scrivetemi vfurlanetto@radio24.it. Grazie per l'ascolto. Indovina chi viene a cena torna sabato prossimo, cena tarda, che questi sono temi un po' indigesti. Venite quindi già mangiati. Buona serata a tutti da Valentina Furlanetto. Ciao. You've got to give a little. That's the glory of love.